Ma noi abbiamo lanciato per primi un allarme innanzitutto contro un silenzio dilagante o assordante, come vogliamo dirlo, perché è un tema di grande importanza questo degli accordi internazionali, che sì che vengono studiati, sottoscritti e pensati agli alti livelli qui a livello Europa, che poi dovranno essere ratificati da tutti gli stati membri questi accordi, ma che hanno una ricaduta sulla operatività e sull'economia quotidiana di ognuno di noi. Quindi abbiamo pensato che fosse, a tutela delle imprese agricole non solo, un tema da portare all'attenzione dei cittadini e soprattutto dei decisori politici. Questo accordo lo definite un regalo alle grandi lobby industriali dell'alimentare, che penalizzerà l'agricoltura ad esempio della nostra regione? Sì, perché noi abbiamo una ricchezza nella regione Emilia Romagna di prodotti a denominazione di origine, Emilia Romagna è la regione europea che ne ha di più con 44, ma se vogliamo andare a vedere tra quello che indica il CETA, solo 12 vengono riconosciuti, mentre gli altri 32 non avranno nessuna tutela. Questo ci sembra un punto di partenza errato, perché se deve essere tutelato le indicazioni di origine sia DOP che IGP delle nostre eccellenze agroalimentari, dovrebbero essere ricomprese tutte. Ne rimangono fuori di importanti, ce ne sono alcune importanti dentro, ce ne sono fuori tante altre, come la Coppa di Parma, la Coppa di Piacenza, lo stesso salame felino conosciuto e quant'altro, che non vengono riconosciuti. Ma soprattutto regalo alle lobby, perché di fatto con questo accordo si autorizza e si permette di poter continuare a produrre in Canada e commercializzare dei prodotti che hanno un chiaro richiamo con i nomi italiani, e praticamente non poterli più perseguire, perché potrà essere indicato ancora una volta il nome Gorgonzola, potrà essere autorizzato la produzione in Canada di prodotti, formaggi per esempio, che vengono chiamati provolone. L'importante è mettere davanti una piccola parolina con scritto tipo Gorgonzola, tipo provolone, e di fatto rinunciamo alla lotta all'Italian Sounding con dei danni alla nostra, sicuramente alla nostra economia. Spesso si è parlato anche di protezione del Made in Italy, beh, questo accordo va in direzione contraria. Noi abbiamo una regione che è molto attenta alla tutela dell'ambiente, a disciplinari molto stringenti relativi alla produzione di ortofrutta rispettosi, appunto, come dicevo, di tecniche di coltivazione che hanno grande sensibilità nella riduzione della chimica, e questo sicuramente i nostri agricoltori hanno seguito questo modello produttivo e sono tra i più sicuri al mondo. Vedere oggi che dall'altra parte l'Europa apre a dei mercati dove questa sensibilità, mi riferisco al grano, può essere coltivato con l'utilizzo di glifosato che in Italia è vietato, ci lascia molto perplessi su questo modo di stipulare accordi commerciali dove di fatto si parla di libera concorrenza, ma noi operiamo con regole molto più stringenti e a tutela dei consumatori, e apriamo i nostri mercati a produzioni dove questo rispetto e questi vincoli non li hanno. Quindi insomma c'è il rischio anche di ricadute sanitarie? Abbiamo solo lanciato l'allarme su un aumento delle verifiche e della prevenzione nei controlli, perché è palesemente pubblico il fatto che per far maturare il grano nei paesi a nord del 45° parallelo venga usato un diserbante, perché altrimenti non maturerebbe. E visto che lei ha permesso farlo e da noi no, almeno se chiediamo che comunque, indipendentemente dall'accordo col CETA, in queste importazioni da paesi extracomunitari ci sia un alta attenzione degli enti preposti nelle verifiche dei residui chimici che si potrebbero trovare. Ecco, voi state portando avanti una campagna Stop CETA con interventi anche per interessare regione ed enti locali, come stanno rispondendo? Guardi, noi abbiamo fatto in tutta Italia e quindi anche noi qui in Emilia Romagna una sensibilizzazione scrivendo a tutti gli enti pubblici, regione in primis e comuni, per chiedere la presa di posizione con una delibera contro la ratifica da parte del governo italiano dell'accordo CETA. Le dico soltanto che oggi in Emilia Romagna abbiamo superato la buona dei 100 comuni che hanno deliberato contro il CETA. Sappiamo che a breve in regione ci sarà una discussione su questo argomento. Già 10 regioni in Italia hanno deliberato contro la ratifica del CETA. Vedremo cosa farà la nostra regione Emilia Romagna, che ha basato sulla grande qualità delle sue produzioni, la sua fortuna nell'agroalimentare e in agricoltura. Una cosa cosa possiamo però, come col diretti, dirla e come soddisfazione è che una questione che stava passando in silenzio, oggi di dominio pubblico, se ne parla, se ne ragiona, se ne discute, e questo deve essere un modello da seguire, perché dopo il CETA arriveranno tutta una serie di ulteriori accordi con paesi dell'Asia, Giappone in primis piuttosto che altri paesi, e noi dovremmo essere pronti a non svendere le nostre produzioni, o perlomeno a chiedere che vengano tutelati o vengano applicate le stesse condizioni di produzione.